proponiamo iniziative che sostanzialmente cercano di aiutare appunto il mantenimento della memoria, la comprensione dei meccanismi che possono parlare della persecuzione e della perdita dei valori fondamentali della civile convivenza. Ed è anche su questo tema che abbiamo chiaramente strutturato il nostro programma. È un programma molto ampio e il tema centrale del nostro programma è quello di recuperare quella nostra funzione educativa e didattica che purtroppo in questo anno, da marzo, abbiamo molto perso. Noi siamo abituati come museo ad avere il contatto diretto con gli insegnanti, con le scuole, e noi crediamo sostanzialmente che il giorno della memoria, ma sostanzialmente il periodo della memoria e tutto l'anno, è improntato per il nostro tipo di didattica e di schemi educativi al mantenimento e al dare strumenti anche, diciamo, non semplicistici ma semplici per capire e analizzare temi e realtà complesse come appunto quella della memoria. Ed è per questo che appunto il nostro programma cerca di recuperare, seppur online, seppur con queste nuove modalità, tutto ciò che riguarda educazione didattica e modalità di comunicare questi temi alle scuole e agli insegnanti. Il tema centrale del nostro programma ruota intorno ad una importante mostra, una mostra che è stata realizzata dal Memorial della Shoah di Parigi e che è presentata nell'edizione italiana col sostegno dell'Assemblea Legislativa, una mostra Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Ora, la mostra, che era programmata come apertura al pubblico il prossimo 24 di gennaio, purtroppo, stante la situazione, dobbiamo, come dire, rimandare questa inaugurazione, che per noi anche come museo è il momento ufficiale anche dell'incontro con le istituzioni e con le personalità. Tuttavia, questa mostra verrà richiamata in due importanti momenti, in due seminari che si terranno il 22 gennaio e il 27 gennaio. Questo del 27 gennaio, sempre in collaborazione con Memorial della Shoah e Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, appunto per richiamare questi temi importanti di questa mostra. Allora, la mostra è su Auschwitz-Birkenau, sono state fatte sicuramente nel passato molte mostre, molte esposizioni, ma questa in particolare è una mostra che ricerca il tema della verità, in questo senso la verità storica. Non è soltanto una mostra che parla e che considera, e tutti lo sappiamo, Auschwitz come un simbolo universale della crudeltà e della sofferenza umana, ma Auschwitz come un fatto storico, cioè il sistema concentrazionario di Auschwitz visto, analizzato scientificamente con documenti, con iconografia molto interessante, visto appunto come fatto storico, analizzato in questo modo e anche con un linguaggio particolare che tende appunto a far capire il valore soprattutto storico di Auschwitz e il sistema concentrazionario che gli girava intorno. In particolare questa mostra ha un altro elemento che va caratterizzato e va risaltato, il fatto che in questa mostra c'è un'ampia sezione che parla della deportazione italiana ad Auschwitz, che include un migliaio anche di non ebrei, a larga maggioranza di donne, che finirono appunto ad Auschwitz prevalentemente con la categoria dei politici. E questo tema della deportazione della popolazione italiana verrà ampiamente trattato, facendo anche riferimenti a vicende individuali, a destini particolari, nel webinar che vi ho già citato del 27 gennaio prossimo.